tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi 28 febbraio è la giornata mondiale della lentezza e forse non è un caso che, come mi ricorda Nicola Filippone, festeggino oggi il loro compleanno due campioni tra i più grandi dello sport italiano, Dino Zoff e Gustavo Toni, che andavano fortissimo sul piano strettamente sportivo, ma erano e continuano a essere slow se si parla invece di qualità della vita e di maniera soprattutto di interpretarla. Zoff compie oggi 69 anni, 60 cifra tonda per Gustavo Toni. Anche Francesco Guidolin ha atteso con molta, ma molta pazienza, con la lentezza che serve in questi casi, il momento della vendetta, un piatto che va servito freddo. Lui l'ha servito gelido ieri al suo ex presidente Zamparini, che a suo tempo lo aveva trattato come sta trattando adesso Delio Rossi. E scrive da Palermo un ascoltatore, un fedelissimo, che si chiama Maurizio Zerbo. E la sua mail è la seguente: Padre Padrone è il titolo di un celebre libro, ma anche la chiave di lettura di questo esonero nefasto, un gesto inutilmente teatrale e autoritario che pare ricondurci alle società patriarcali dell'Ottocento, dove però non esistevano i supermercati, mi risulta. La voce, la prima voce da ascoltare è per l'appunto quella di Guidolin. No, ma noi non ci stiamo nascondendo da un po' di tempo, da quando abbiamo fatto il primo step, quello dei 40 punti, abbiamo detto cerchiamo di arrivare più in alto possibile e cerchiamo di rimanere agganciati al gruppetto delle squadre che giocano per l'Europa. Ci abbiamo lavorato 7-8 mesi per cercare di essere una squadra in talune circostanze meno fragile e meno superficiale. Non basta un mese, bisogna continuare il lavoro, la progressione che ci abbiamo messo, la passione che ci abbiamo messo, e cercare di continuare così senza perdere di vista il nostro modo di giocare, che indubbiamente è brillante, senz'altro. Allora è festa oggi anche per il centrocampo della Juve, ironizza Roberto da Belluno. Beh, insomma, il centrocampo più lento della storia fu quello con cui Nils Lidon vinse lo scudetto, almeno che ricordi io. Vinse lo scudetto dell'83 con la Roma, perché a parte il grande, anzi immenso Falcao, ma insomma il compianto di Bartolomei e l'austriaco Proasca erano due giocatori lenti. Poi la palla con loro correva abbastanza, è palla che deve sudare, si è sempre raccomandato Lidon, però insomma diciamo che tutti e due non erano fulmini di guerra se si parla di scatto, se si parla di velocità di base o di fondo. Ieri sera una vittoria molto preziosa dell'Inter, anche molto significativa, alla vigilia, nell'immediata vigilia di Milan-Napoli, che era sino a ieri probabilmente la sfida scudetto a due. Oggi, con la vittoria dell'Inter sul campo della Sampdoria, è a pieno titolo uno degli incroci di una lotta a tre. E allora sentiamo il commento di Snyder su questa vittoria interista. Certo, una vittoria molto importante. Adesso siamo a due punti da Milan, un punto davanti Napoli. Questa partita era molto difficile, ma per forza abbiamo vinto. Abbiamo giocato molto bene, anche da inizio abbiamo giocato molto bene, abbiamo pressato molto. Quindi noi meritato la vittoria, e secondo me abbiamo vinto, e questo è la vittoria più importante per noi, perché dopo Bayern Monaco, che era un po' peccato, difficile, adesso abbiamo vinto e abbiamo 3 punti e una settimana di descanso. Il descanso che sarebbe il riposo, ma ormai il linguaggio calcistico insomma si è universalizzato. Snyder, curiosità tra le tante che come sempre ogni lunedì mi segnala Franco Piantanide, Snyder ha segnato ieri il primo gol su punizione in stagione, tra l'altro su due punizioni, anzi su tre, una in una è stata pericolosa, in una ha preso il palo esterno e una l'ha segnata, però è il primo gol su punizione nonostante sia il giocatore che più ci ha provato quest'anno con palla ferma da fuori area, 16 punizioni battute e un solo gol. Se poi parliamo di altre curiosità statistiche, per esempio nelle ultime 12 partite per la Sampdoria, cioè da quando ha perso prima Cassano e poi Pazzini, è la decima in cui non riesce a far gol. Donadoni continua a vincere o a perdere, ma soprattutto a vincere, visto che è arrivato a 9 vittorie e 6 sconfitte. Se parliamo invece del massacro Friulano-Udine, solo altre due volte nella storia si erano verificati dei 7-0 in trasferta, un Venezia-Padova 0-7 del 49 e nello stesso anno un Genoa-Milan 0-7. Se poi Vogliamo arrivare a una curiosità, forse ancora più singolare è questa. Sanchez, che è certamente destinato a una grande o grandissima carriera, ahimè, per i tifosi dell'Udinese, insomma, in una squadra di diverso livello internazionale, prima dei 4 gol di ieri non aveva mai segnato più di un gol in una singola partita di Serie A. Abbiamo sentito Snyder, c'è un altro personaggio della giornata di ieri, a proposito del quale, cominciano, vedendo i risultati incrociati, cominciano a sorgere dei dubbi. Ma era Amauri che non era dato alla Juventus, o era la Juventus che non era data ad Amauri, visto come se la stanno cavando Toni e alcuni altri successori di Amauri in maglia bianconera? Amauri ha segnato uno strepitoso gol ieri, con dell'1-2, ma veramente strepitoso, con la S maiuscola, e poi un altro gol in mischia che comunque ha fruttato al Parma una rimonta certamente preziosa. Poi è vero che rimontarla a Roma è un po' come picchiare uno che in quel momento sia magari impedito, nel senso che nella mezz'ora finale, sono sempre le statistiche di qui sopra, nella mezz'ora finale la Roma ha subito 24 gol sui 36 subiti in totale. E se pensiamo che negli ultimi 7 giorni, nelle ultime 2 partite di campionato, a parte il recupero di Bologna, è riuscita a farsi rimontare uno 0-3, cioè un 3-0 a Genova e poi un 2-0 in casa contro il Parma, beh, insomma, diciamo che le solidità difensive sono diverse. Sentiamo Amauri. Sono contento di aver trovato la miglior condizione, la miglior forma. Niente, voglio continuare a giocare con continuità come sto facendo e niente, fare gol, perché è sempre bello. No, penso che il mister nel secondo tempo ci ha messo anche del suo, perché ci ha spronato, avevo anche detto prima, ci ha spronato fino all'ultimo, quei 10 minuti nei spogliatoi, che lui ci credeva più di tutti, nel senso che ci ha trasmesso quello. E secondo me è stato anche quello la mossa giusta, e poi siamo andati in campo e abbiamo fatto un gran secondo tempo, ecco. E questo era Amauri, protagonista, ripeto, del pareggio di ieri del Parma sul campo della Roma. La Roma c'è ricascata, e quindi quello che sembrava Montella avere, se non risolto, perlomeno cominciato a risolvere, e cioè evitare il calo finale, il calo quando la Roma è in vantaggio, è nella sua situazione di peggior pericolo, ma questo già nelle stagioni recenti, anche quella scorsa, un paio di rimonte subite a maggior ragione quella con la Sampdoria le costarono il titolo, ma quest'anno il fenomeno si è veramente estremizzato. Sentiamo Montella su questo fenomeno. I numeri dicono, e voi me lo insegnate, che sono con oggi 24 gol che la Roma subisce nell'ultima mezz'ora, quindi non può essere esclusivamente un fatto mentale. Chi fa calcio la soluzione la può trovare, insomma, la può capire. Non è una questione di modulo, di uomini, di giocatori, è un dato di fatto. Si è visto un calo da parte della squadra e quindi è tutto abbastanza evidente, insomma. Noi fino a quel momento, fino al 74esimo credo, non avevamo subito un tiro in porta, e poi c'è stato questo calo, insomma, quindi io la leggo così. Dico un'eresia, scrive Lorenzo Lanovara, affermando che neanche Nesta all'età di Ranocchia era così forte. Sì, secondo me lei dice un'eresia, perché Nesta era proprio forte da ragazzino già, e non da giovane. Questo non per sminuire Ranocchia, sia ben chiaro, che sta crescendo molto bene, ha grandi qualità, però ricordiamoci di chi era e com'era Nesta. Come mai, domanda un ascoltatore, Milan-Napoli si gioca di lunedì, un ulteriore spezzettamento del campionato? No, è che il Napoli ha giocato una partita decisiva di Coppa il giovedì sera, sapeva, questo era previsto dal calendario, e quindi ha chiesto e ottenuto un posticipo, che ovviamente le televisioni che comandano la Lega, non la Lega, che è sottomessa alle televisioni, è stata ben lieta di concedere, perché consentiva un'ulteriore spalmatura. Diciamo che andava bene per tanti, per non dire per tutti. Primo intervallo, strade. Qualche altra curiosità statistica ancora per dar tempo di smaltire le vostre prenotazioni, che sono particolarmente numerose. Allora, erano più di 30 anni, esattamente dall'ottobre dell'80, che il Bologna non vinceva a Torino, 1-0 con un con un gol di Paris, mentre il Brescia, a proposito di squadre con una tendenza negativa, perlomeno per i finali, Brescia ha perso 18 punti nei secondi tempi, e quindi in questo è una squadra che somiglia molto alla Roma, nel senso della mancanza di tenuta alla distanza. Questi 18 punti sono un record negativo in campionato, mentre invece sono 9 le giornate in cui il Lecce trova consecutivamente le vie del gol, e questo è un buon segnale certamente per la corsa alla salvezza. Valentino ha chiamato proprio dalla provincia di Brescia, buongiorno. Grazie Gigi, ha detto no, che oggi è la giornata di andare d'agio, ha detto Valentino, certo, il 28 febbraio. Vai ad agio. Sì. E fin qua siamo arrivati. Poi scusi, è così bello ridere ogni tanto. Sì, certo. E poi dopo magari il mio commento verrà preso negativamente. No, non fa niente. Ma, Valentino, questo no, poi Woody Allen era un'altra roba, però è carino. Dica. Allora, questa mattina prendo i giornali così, leggendo sull'Inter, sull'interista, dove dicono che se quel palo che ha preso quel giocatore della Sampdoria fosse entrata, la partita sarebbe cambiata. Beh, quelli dei ma, quelli di po. Anche l'Inter ha preso il palo. Cioè, non so se è una mia idea che molte volte i giornalisti ce l'hanno con l'Inter, o se è una mia idea che scrivono molto bene sulle altre squadre, ecco, questa è la mia idea, Però io, vedendo la partita ieri sera, ho visto non un grande Inter nel primo tempo, nel secondo tempo sì, ha fatto quelle due reti, però c'è anche da dire che negli ultimi due mesi ha giocato quasi 20 partite. Valentino, essendo il suo onomastico, oggi non me la sento di infierire, onestamente, però insomma, dire questa grande congiura mediatica nei confronti dell'Inter io sinceramente non riesco a coglierla, tantomeno per esempio su certi giornali che all'Inter sono legati anche per ragioni di sponsorizzazione o di comune gestione del marketing e dell'immagine, quindi sinceramente non riesco a condividerla. Mario, Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io sono tifoso dell'Inter, è papà di un giovanissimo arbitro, non sono d'accordo con Valentino di prima, non ci sono congiure, ci sono interessi magari economici, qualche partita non è che venga modificata dall'arbitro, né congiure giornalistiche, sono degli interessi, ci sono i tifosi che poi alla fine siamo noi che paghiamo. E sul discorso dell'Inter, del campionato, ritengo che sia un campionato piuttosto modesto, infatti come dice Mario Sconcerti, all'Inter poi alla fine bastano 10-15 minuti di partita per risolverlo. Pronto? Prontissimo, sono qua. Sì, mi sente? È forte e chiaro, Mario. Sì, no, perché sono in macchina, quindi... Sì. No, appunto dicevo che non so se sarebbe trovato d'accordo. Poi l'ultima cosa, sul paragone Gorranova, Ranocchia, Nesta... A me ricorda Franco Baresi, ho 50 anni, ho visto Franco Baresi nascere, ho visto la prima partita di quando lui era per terra, gli dissero stai fermo, grande giocatore. Non voglio fare paragone perché Ranocchia sicuramente non è né Nesta né Baresi, è un grande giocatore. È un gran difensore. Era più forte, probabilmente Bonucci ha vissuto anche di luce riflessa, perché alla luce di quello che sta facendo Bonucci nella Juventus non sembra questo, nella nazionale non sembra questo grande campione, quindi un po' di luce gli ha dato anche. Bisogna anche vedere chi hai vicino, bisogna sempre anche vedere un difensore singolo, è difficile che faccia reparto. Se hai di fianco i difensori che Ranocchia ha nell'Inter, è già meglio che non avere di fianco quelli che ha invece Bonucci alla Juventus, al di là di responsabilità sue o meno, che però possono anche essere coinvolgimenti progressivi, no? Perché insomma mi pare che la difesa della Juventus quest'anno sia imbarazzante nel suo insieme, soprattutto nelle partite in casa, il record negativo di gol subiti in casa, insomma questo per una squadra come la Juventus mi pare che la dica anche troppo lunga. Luca da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo esprimere un'opinione relativamente alla partita di Palermo di ieri con la goleada dell'Udinese e principalmente su un paio di dichiarazioni che ho sentito a fine partita sui canali Sky relativamente al fatto se fosse giusto o meno a un certo punto continuare, hanno usato il termine infierire, dopo il settimo gol segnato dall'Udinese, perché si presumeva il fatto che in certe circostanze forse era meglio avere più rispetto verso l'avversario. Io la penso in maniera diametralmente opposta invece, e dico che il rispetto verso l'avversario si ha continuando a giocare il proprio gioco nella lealtà sportiva, e ahimè, anzi ai loro, se capita di farne ancora di gol è giusto farli. Sarebbe invece inopportuno cominciare, perché dopo 7 gol cosa fai? Comincia a far melina, comincia a fare qualche gioco di prestigio. Sarebbe invece una presa in giro assoluta, secondo me, cominciare a così a non giocare più, perché magari l'avversario. Ma Luca, io trovo che questa sia una di quelle questioni di lana caprina in cui noi italiani siamo specialisti assoluti, anzi probabilmente deteniamo una delle poche esclusive mondiali che ci rimangano. Io la penso un po' più come lei, però le domando, dato che prima o poi ti fermi, no? Perché quando l'Udinese è arrivata a 7-0 in 11 contro 9 si è fermata, perché sennò finisce 14-0, no? Fin qua credo che sia evidente. Allora, non esiste una regola, non esistono norme, esiste l'interpretazione del momento. Io credo che l'Udinese ieri non abbia inteso infierire, perlomeno da un certo punto in poi, e nell'ultima mezz'ora lo si è visto chiaramente. Prima penso anche che queste situazioni vengano decise più che dall'atteggiamento di chi è in vantaggio, dall'atteggiamento di chi è in svantaggio. Il Palermo ha continuato ad attaccare, e quando ti lasci delle praterie alle spalle diventa un po' imbarazzante per la squadra, anche che non vuole infierire, non farlo, perché poi quando ti ritrovi l'area spalancata e la porta vuota, insomma, è più naturale la palla buttarla dentro, no? È più rispettoso di se stessi, dei propri tifosi, anche degli avversari. Quindi mi pare che così sia andata. Fermo restando che Guidolin, quando ha capito che Sanchez ieri, insomma, di fermarsi non aveva questa grande intenzione, l'ha tolto, ed era l'ottavo del secondo tempo. E quindi, insomma, anche questo mi è sembrato un gesto. Un gesto di saggezza, no? Si fa quel che si può in rapporto anche e soprattutto al comportamento degli avversari. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Io vorrei intervenire. Innanzitutto concordo con lei sull'ultima cosa detta della partita Palermo-Udinese, in quanto il Palermo, essendo anche 9 uomini, osava anche attaccare. Io penso che bisogna essere un pochettino più realistici e magari pensare almeno peggio possibile, ecco. Poi un'altra cosa, vengo al dunque, io parlo da tifoso juventino, sì. Purtroppo nelle ultime partite, io le sto guardando un po' tutte, nelle ultime partite vedo che c'è talmente tensione nella squadra della Juventus che quando si crossa in area ci sono minimo 10 giocatori juventini che si ostacolano tra di loro. Beh, poi è naturale che l'arbitro fischia il fallo in attacco, è naturale. Se lei magari ha possibilità di vedere o di aver visto qualche partita della Juventus, vede tranquillamente che ci sono 7-8 giocatori in area della Juventus e della avversaria che si ostacolano tra di loro e quindi non riescono a far nulla. Questo adesso 7-8 mi sembrano tanti, onestamente, Giovanni. Poi, per carità, sarà anche successo, perché quando non sei sereno, quando vuoi strafare, sì, ci sono state un paio di mischie, soprattutto contro il Bologna, soprattutto quella in cui tutte e due, cioè ci sono due giocatori, uno dei quali è Chiellini, che per far casino non manda un altro, in effetti, soprattutto in area avversaria, dà l'impressione di ostacolare, insomma, ma da lì che tutte le partite ci sia questo problema fondamentale non mi pare. Il problema è un altro, è che l'ultima agenzia arrivata dice che il consiglio di amministrazione di stamane ha ratificato, parlo di Juventus, il primo semestre di esercizio 2010-2011 con un rosso di 39,5 milioni. E questo credo sia un problemino in prospettiva, perché significa che il potenziamento di cui questa Juventus ha indubbiamente, oggettivamente, quanto urgentemente bisogno, deve fare i conti comunque con queste cifre abbastanza impressionanti. Antonio in linea da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo dire, io è la prima volta che chiamo, le ascolto praticamente tutti i giorni, però so bene che lei non è tanto, diciamo, mi sposto a parlare di certi argomenti, però diciamo, cioè, in seguito a queste lamentele degli interisti, io volevo farle una domanda, io perché ho sentito poc'anzi alcuni interisti che dicevano ce l'hanno con noi, giornalisti, qualcuno ce l'ha con noi. Le volevo dire, ma io sono uno che praticamente sono simpatizzato della Juve, magari l'ha già capito. Volevo dire, cosa ne pensa lei delle intercettazioni che diciamo tirano in ballo Facchetti, che chiama Bergamo, che dice 4-4-4, 5-5-5, vittoria, dobbiamo vincere, Chiellini e quant'altro. Volevo sapere cosa ne pensa di questo argomento e di queste chiamate che... Cioè io voglio dire, io diciamo così, mi sono messo, diciamo, la coda tra le gambe quando ho ascoltato le telefonate di Monchi. Ma in seguito a queste altre diciamo, telefonate che sono uscite, come le devo collocare queste chiamate che nuove? No, ne faccia l'uso che crede, Antonio, cosa vuole che le dica? Io sinceramente non un'opinione non ce l'ho, nel senso che sono passati un sacco di anni. Io vedo che ci sono insomma, c'è un continuo rimestare, no? In queste cose, nel tentativo disperato di far passare il messaggio che in realtà tutto era marcio e quindi nulla era marcio. A me sembra che quando anche queste poi queste ulteriori intercettazioni trovassero dei riscontri definitivi, perché fino ad ora siamo sempre ancora in una fase di durante, no? Stiamo aspettando delle conclusioni che vengano tirate da chi le deve tirare queste conclusioni, no? non dalle parti interessate, ma da qualcuno che sia al di sopra delle parti, o perlomeno che ci auguriamo che lo sia. Quando queste conclusioni saranno definitive e saranno tirate, beh, ci potrà essere indubbiamente un coinvolgimento di un'altra società. La maggiore indiziata è certamente l'Inter, sulla base di queste indiscrezioni. Bisognerà vedere se queste responsabilità saranno pari o dispari rispetto a quelle che erano state accertate a loro a suo tempo a carico della cricca. Io credo che pari non arriveranno mai, però può anche darsi che sia un vaticinio sbagliato. Basta aspettare, prima o poi lo vedremo. Torniamo con i vostri interventi, con la sintesi degli interventi più significativi dopo le partite dell'ultima giornata. Le proteste, no, ce ne sono state molte di proteste ieri per episodi arbitrali, e un paio almeno mi sembrano giustificate. In particolare mi pare che penalizzate siano uscite due squadre che lottano per salvarsi, uno è il Brescia e l'altro è il Chievo. Allora sentiamo come hanno giudicato questi episodi due responsabili. Uno è l'allenatore del Brescia, Iacchini. C'era sembrato dalla panchina, insomma, che Olivera allungasse la palla e quindi il gol fosse regolare, però adesso è chiaro che un gol regolare che ci penalizza, perché sul piano del risultato il Brescia oggi ha fatto una prestazione da 3 punti, per quello che ha fatto sul campo, per quello che ha dimostrato. Poteva andare sul 3-0, una volta accorciate le distanze il Lecce sul nostro errore potevamo andare sul 3-1. Grande peccato e rammarico, perché insomma quando fai prestazioni del genere, insomma, speri di portare a casa quanto meriti. E questo era la protesta dell'allenatore del Brescia per l'episodio finale del gol annullato, che era certamente valido, ma che era altrettanto difficilissimo da concedere, perché c'è un groviglio di gambe incredibile in quella mischia per capire chi avesse toccato il pallone da una parte o dall'altra. C'erano 4 maglie azzurre davanti al portiere in fuorigioco, delle 4 solo una non era in fuorigioco, combinazione quello che l'ha toccata. Cioè, diciamo che è un caso limite, e per una squadra che vince in casa 2-0 si fa remontare sul 2-2 e poi viene negato ingiustamente questo 3-2, mi sembra che forse anche un pezzetto più di autocritica potrebbe non guastare. Sentiamo il presidente del Chievo invece sul rigore finale concesso al Cesena. Diciamo che ormai sta diventando un'abitudine, poi per carità non bisogna dare le colpe sempre agli arbitri, però insomma, magari oggi pochino, qualche errorino di troppo c'è stato, insomma, però insomma, avanti. Sbagliare col Chievo è facile, capisco che non ci lamentiamo e non vuole essere una lamentela. Sbagliano i miei giocatori, è giusto che sbaglino pure gli arbitri, però magari un minimo di attenzione in più non guasterebbe. Ecco. E questo era il presidente del Chievo, Campedelli. Massimo ha chiamato la provincia di Monza, buongiorno. signor Garanzini. Senta, io vorrei fare una piccola considerazione in merito, sono tifoso juventino, premetto, sì, in merito al gioco espresso dalla Juventus in questo ultimo periodo, se di gioco si può parlare. Io mi faccio riferimento all'ascoltatore che ha telefonato prima, in merito a quella confusione che si crea ora, vabbè, 7-8 giocatori, anche io credo che siano un po' troppi, però c'è sempre questa confusione in area di rigore avversaria su chi veramente deve fare l'intervento sui palloni, ma anche i movimenti degli attaccanti, che spesso volentieri, anzi mal volentieri direi, vanno in direzione, diciamo, della palla, tutti e due gli attaccanti, Toni, Matri e Quinta, sì, visto anche nell'ultima partita. E questo secondo me è sintomo di scarsa attenzione sulle cose che spiega probabilmente, direi bene, il signor del Neri, che io reputo comunque un buon allenatore, anche se sono tifoso di Giovanni Galeone, vorrei Galeone tutta la vita alla Juventus, anche subito. Il problema è che, Galeone ci ha detto a inizio stagione al 9 settembre e forse potremmo anche trovare il file per rimandarlo in onda, l'abbiamo già rimandato, potremmo rimandarlo ancora, che la Juventus di quest'anno era da settimo posto. Allora, dato che Galeone ha il vizio dell'analisi realistica, forse non sarebbe stato l'allenatore ideale per galvanizzare la truppa, no? Perché secondo lui questo, ma a settembre, non adesso, quando era un po' più difficile, era il valore reale della Juventus. Qualcun altro invece questa Juventus l'ha sopravvalutata e adesso si ritrova con questa, poi molto girato storto, intendiamoci, nel corso della stagione, ma la situazione di oggi è davvero pesante. Domenico, provincia di Bari, buongiorno. Domenico è caduto, mi fanno segno, da spero non fisicamente, mi fa segno alla regia, e quindi tocca a Lorenzo che ha chiamato da Savona. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Io volevo chiederle due cose veloci. La prima, dal suo punto di vista, se siamo in grado di salvarci, lato Sampdoria, lato Genova dall'altra parte. Beh, Genova. E poi volevo giusto chiederle se fosse più giusto inveire contro il nostro presidente per quello che ha combinato nell'ultima campagna acquisti, oppure ringraziarlo in prospettiva futura per il risparmio che ha fatto, quindi ci ritroviamo magari con un bilancio più a posto. Cosa dice? Lorenzo, lei sta parlando di Sampdoria, vero? Sì, sto parlando della Sampdoria, purtroppo. Beh, insomma, io credo che vada semmai ringraziato per quello che ha fatto prima, credo che vada non troppo, come dire, non troppo disamorato per quello che potrebbe o potrà fare ancora per il futuro, e poi che vada capito se ha avuto un passaggio a vuoto di investimenti, mettiamola così, o di rientri per evidenti delusioni, per evidenti traumi affettivi, calcistico-affettivi che ha subito negli ultimi mesi, perché si è visto, insomma, è arrivato a toccare la Champions, no? Non toccare, a centrare, a realizzare la Champions, da cui è stato eliminato lui, come la Sampdoria, come i tifosi, sia ben chiaro, in una maniera che dire rocambolesca è poco nei preliminari estivi. Nel frattempo lo avevano salutato ringraziandolo il direttore generale e l'allenatore. Dopodiché è successa, e sono due, poi è successa la cosina di Cassano, da cui si è sentito evidentemente tradito, poi che abbia gestito bene o male quella situazione, insomma, l'ha gestita comunque, ha deciso lui e solo a lui spettava la scelta del da farsi, e se quindi sta attraversando un momento, diciamo, di entusiasmi relativi, io credo che vada capito. Salvarsi credo che non sarà un'impresa, ma credo anche che la Sampdoria non debba sottovalutare il rischio, perché da quota 31 in giù il rischio vale per tutti, anche per la Sampdoria, quindi perlomeno in teoria. Giuseppe ha chiamato da Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno signor Garanzia. Niente, io volevo dire una cosa riguardo a Sampi Inter di ieri sera, sentendo cosa hanno detto Di Carlo e Gastaldello alla fine della partita. Secondo me ieri ha vinto la squadra che, a differenza di una squadra che deve fare un discreto campionato, ha due giocatori che gli permettono di lottare per lo scudetto. Significa che l'Inter ha Sneijder e To, come il Milan ha Ibrahimovic o quant'altro, è una squadra che deve fare un buon campionato come la Sampdoria, non ce l'ha, ha fatto una buonissima partita, però poi i prestigiatori tirano fuori dal cilindro i numeri, sì. quello che è successo ieri sera, quindi non starei a fare l'arbitro non ha fischiato delle punizioni che all'Inter ha fischiato qua e là, tutto lì, certe volte diciamo di... Quella è una partita, no, ho capito Giuseppe, è chiaro, ma lei ha ragione, questa è una partita che fino a 4 mesi fa la Sampdoria vinceva, molto semplicemente, perché nel primo tempo di superiorità, non dico netta, ma di superiorità, comunque 3 di quelle occasioni che ha avuto con Pazzini e Cassano le trasformava sicuro, non dico tutte e 3, ma in porta ci andava e in vantaggio ci sarebbe andata, poi magari ne prendeva 4 perché l'Inter è capace di grande rimonte, ma adesso invece con Maccarone punta centrale anche abbastanza isolata, la bocca da fuoco non c'era la possibilità di chiuderla l'azione, anche quando la Sampdoria, soprattutto nel primo tempo, 2 o 3 incursioni molto pericolose l'ha fatto, poi è stato sfortunato Poli sull'occasione migliore e sulla miglior giocata individuale e di squadra della Sampdoria e poi alla fine è ovvio che i giocatori di qualità li hanno gli altri e la partita la risolvono loro. Marco da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Niente, volevo fare 2 considerazioni, una anche un'opinione sua. La prima, da simpatizzante juventino, volevo dire che Galeone motivò anche perché la Juventus sarebbe arrivata a 7ª, perché avendo preso più gol l'anno scorso non aveva fatto niente per rinforzare la difesa. La difesa, esattamente. Sì, sì. E poi voglio aggiungere, non avendo una grande qualità di giocatore, perché ha fatto una campagna acquista a mio parere di giocatori, bravi giocatori, ma non che possono fare la differenza nei momenti come adesso, qualche dubbio anche sul direttore sportivo e sull'allenatore viene molto probabilmente non all'altezza di raggiungere certi obiettivi, ma questa è un'opinione mia. Mica soltanto sua, No. E poi niente, proprio diciamo parlando sempre bene di Galeone, parlando un po' dei suoi allievi, tra cui Allegri, che stasera penso sia chiamato a dimostrare che saper gestire diciamo anche le situazioni un pochino difficili da un punto di vista di nervi, perché poi stasera penso da un punto di vista di qualità non me ne voglia il Napoli, ma insomma il Milan è sicuramente superiore, no? Anche sull'individualità delle persone. Non so, da un punto di vista di nervi saldi, e qui insomma ecco, non so quanto Allegri possa riuscire o sia in grado di poter gestire situazioni. Lo vediamo stasera. Vincere, ecco. Lo vediamo stasera. Grazie Marco, ultimo intervallo di oggi, strade. Oltre a segnalarmi tempestivamente i compleanni di oggi, di cui vi ho parlato all'inizio, giornata mondiale della lentezza, e allora Dino Zoff, che compie 69 anni, auguri. E altrettanti auguri ai 60 anni di Gustavo Töni, per non parlare di Luis Vinicio, che ne fa 79. Nicola Filippone, oltre a questo, ha pescato un episodio storico di un 28 febbraio del 62 nella fattispecie. Sembra ieri. 28 febbraio 1962. Spareggio dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. Il Real Madrid di Di Stefano e Puskas e la Juventus si trovano di nuovo di fronte sul neutro di Parigi dopo che i madrileni avevano vinto a Torino e i bianconeri avevano sbancato il Bernabeu con un gol di Sivori. Ed è ancora Sivori al 33esimo a portare in vantaggio la squadra allenata da Carlo Parola, ma il Real risponde dopo 7 minuti con il difensore Felo. Nella ripresa la squadra madrilena prende il sopravvento andando a segno altre 2 volte con Del Sol, che giocherà in seguito per 8 stagioni con la maglia bianconera, e Tejada. Il Real andrà avanti fino alla finale, dove sarà battuto per 5-3 dal Benfica di Eusebio. Una delle finali più divertenti e più prestigiose della storia di Coppa dei Campioni. Voi lo definite fenomeno, in realtà è da parecchio tempo che la società lavora così. È il commento di Gino Pozzo, figlio del patron Giampaolo Pozzo, sul momento d'oro dell'Udinese. L'Udinese di oggi, ha detto Pozzo, è l'unica squadra italiana che adotta la filosofia calcistica della Spagna, nel senso che privilegiamo la qualità tecnica che permette di sviluppare un gioco che fa la differenza. Un po' quello che avviene nel Barcellona, che è la squadra numero 1 al mondo. In linea c'è Matteo da Perugia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie. Dica. Per lo spazio. Mi auguro di cuore che giovedì prossimo non sia l'ultima puntata di Studio 1 Football Club. Mi auguro. Non lo sarà. Ah, bene. Nel senso che c'è già stata l'ultima puntata, ma questa è un'altra storia. Dica. Vabbè, ok. Dica. Attenderò. No, però tempo fa si parlava in relazione al campo del Novara. Sì. Mi pare si ragionava sul fatto se i campi in sintetico alterino oppure no l'andamento di una partita. Però io ieri sera ho guardato, per esempio, Sampdoria-Inter, un campo in quelle condizioni, ma ne abbiamo visti anche di peggio. Sì. Non alterano ancora di più una prestazione, perché poi possono esserci dei campioni, ma se il terreno è, diciamo, pieno di buche, è chiaro che ne viene a risentire la qualità dello spettacolo stesso. Sì, sì. Non so che ne pensa. Ma io penso che lei abbia ragione, nel senso che piuttosto che giocare su campi di patate come quello di ieri sera, come quello di Verona, ma come altri ancora, meglio sintetico. Però mi domando, ma perché il sintetico in Italia con il clima che abbiamo noi, le condizioni che abbiamo noi, quando ci raccontano, vediamo, ma lo possiamo vedere in qualsiasi istante, che addirittura in Siberia ci sono dei campi con un'erba naturale perfetta, nonostante le gelate siberiane che, insomma, più o meno, di cui più o meno abbiamo sentito parlare. Cioè, è possibile che soltanto noi siamo incapaci di queste cose? È possibile che tutte le tecnologie che da tempo all'estero, ma a qualunque latitudine, hanno imparato ad adottare, comprese le serpentine sotterranee, sottoterreno per il riscaldamento, eccetera, eccetera, possibile che soltanto da noi non si applichino e che siamo all'età della pietra nella manutenzione del campo, e cioè del palcoscenico, no? Quello che per primo permette la qualità del gioco e della giocata. È un po' questo, cioè credo che per una latitudine come quella italiana, anche se l'Italia è lunga, da nord a sud, credo che il sintetico sia una sconfitta a cui, insomma, sarebbe meglio non rassegnarsi, ecco, questa è la mia opinione. Salvino ha chiamato la Lecce, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io chiamavo per la partita Brescia-Lecce di ieri. Sì. Non è mai successo, nemmeno quando il Lecce ha vinto il campionato, che si sia parlato un buon 10-12 minuti della partita di ieri, a danno del gol annullato al Brescia. Sì. Diciamo che in altri momenti Morganti a noi ci ha fatto neri. Vabbè. Nel vero senso della parola. Va bene, Salvino, sì, d'accordo. E secondo lei, se finiva alla stessa maniera e a Lecce il gol del 3-2 di Corvia, buono, Corvia o Corvia, buono, fosse stato annullato, voi invece la prendevate in maniera sportiva, vale. Sì. Ecco, però io torno indietro. Quando siamo andati a Catania, non torni indietro, Salvino. Se c'è una cosa che è insopportabile nella vita è il tornare indietro. Io la prego, la scongiuro a nome di tutti gli altri ascoltatori. Qualunque cosa sia successa a Catania, fermo restando che con l'infilata di punti che Lecce ha fatto in queste ultime giornate, se lei vuole arrivare a dimostrarmi che c'è una congiura nei confronti del Lecce, io cerco di evitarle questa brutta figura in partenza. Facciamo questo patto io e lei, le ripeto, per tutela dei nostri amici ascoltatori. Grazie. Domenico, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Senta, una curiosità. Sì. Non le sembra che Leonardo non stia sfruttando al meglio Pazzini? Grazie, l'ascolto per radio. Io ho l'impressione che sia Pazzini che si sta sfruttando poco da sé in questo periodo. Perché mi sembra che dopo questo esordio, che dire scoppiettante è poco, perché insomma tre gol decisivi alla prima partita dell'Inter non sono da tutti. Dopo mi sembra che si sia un tantinello fermato. Io non dico che sia abulico, però dire che sia questo il miglior Pazzini, insomma, tanto non è vero, e poi soprattutto non glielo si augura, no? Lo si è visto anche in nazionale poi. Insomma, mi sembra non in un grande momento lui. Poi, come è ovvio, da noi la colpa è sempre dell'allenatore, per cui non è magari Matri che si sta un pochino involvendo oppure sta cercando una posizione, no, la colpa è di Del Neri, anche se il confino esterno a cui Del Neri era destinato nel secondo tempo dell'altra sera, beh, insomma, è stata una decisione che come minimo discutibile può essere definita. Ma insomma, c'è sempre l'idea che siano che non siano i giocatori responsabili dei loro momenti quanto gli allenatori. Noi abbiamo, secondo me, questa tendenza a considerare il calcio un po' come un videogame in cui c'è quello che smanetta con la manopola, no? E fa fare e la pedina può fare solo quello che la manopola o il telecomando o il mouse o quello che vuole lei gli fa fare. E il calcio è ancora un po' diverso, per fortuna. Giuseppe Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei, Gigi Garanzini, e come le dicono tutti è un piacere ascoltarla e complimenti. Grazie. Senta, io sono genoano, se lei conosce i genoani amano prima il Genoa del calcio, no? E sono uno che rimpiange Gasperini, che anche se ha fatto degli errori mi faceva divertire. Volevo sapere che valutazione dà di Ballardini. È chiaro che a me non piace molto, non vedo che sappia trasmettere entusiasmo alla squadra che si scongela presto. Cosa ne pensa? Ma Giuseppe, io penso che quel Genoa fosse stato costruito non costruito per Gasperini, perché ormai erano un paio d'anni che i rapporti tra Gasperini e Preziosi erano un po' difficilini, però era stato plasmato da Gasperini, che ha un suo modo di intendere il calcio. Poi ho letto stamattina che Gasperini è la prima scelta per Zamparini per la prossima stagione. Sinceramente non glielo auguro, nel senso, glielo auguro perché il Palermo ha un sacco di talenti e io credo che, avendo tanti talenti e tanti giovani, Gasperini sia, o sarebbe, perché non è detto che sia vero, sarebbe fortemente interessato a un'esperienza di quel genere. Dato però che ha già avuto a che fare con Preziosi nella vita, io insomma Zamparini glielo risparmierei, perché poi ciascuno di noi è giusto che abbia un certo numero di croci che solcano l'esistenza, ma senza andare proprio a cercare col lanternino di passare tutto il catalogo. È una squadra che aveva le caratteristiche, aveva il DNA di Gasperini, che aveva certamente più personalità di Ballardini, ma soprattutto che aveva dato questo genere di impronta. Quando un allenatore subentra è difficile che riesca a plasmare, più o meno va di conservazione, e quello Ballardini sta facendo o sta provando a fare. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.